Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti da Deborah Rosciani ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Dopo due giorni di trasferta della nostra trasmissione dalla Fiera del Levante di Bari, siamo ritornati alla nostra postazione tradizionale a Milano e a parlare di un tema tra l'altro molto interessante per molte famiglie che ci ascoltano, perché il tema del risparmio postale è molto conosciuto, se non fosse per i numeri che questo rappresenta. Non c'è solo il postino in bicicletta, la coda per ritirare la pensione, il pacco recapitato all'ufficio postale sotto casa da andare a ritirare. Lo sappiamo bene, l'offerta dei servizi postali è cambiata molto negli ultimi anni, si è evoluta nel tempo specializzandosi sempre di più negli ambiti di natura bancaria, finanziaria ed investimento. Evoluzione molto apprezzata da migliaia di persone, a volte anche un po' contestata da altri che hanno osservato con qualche perplessità questa novità. È stata comunque un'opportunità in più per i cittadini, a cui è stata messa a disposizione una gamma più ricca di prodotti fra cui scegliere. In alcuni casi è anche un rischio, però sappiamo bene che nell'ultimo decennio anche veri e propri prodotti derivati sono stati distribuiti al grande pubblico, le polizze agganciate alle obbligazioni Lehman Brothers, tanto per citare il caso più eclatante. Peraltro dobbiamo anche ricordare il fatto che questo weekend che arriva ricorre 4 anni dal fallimento clamoroso della banca di investimenti americana. Allora, il risultato, tornando alle poste, di questo percorso di cambiamento che le poste hanno vissuto in questi anni è in ogni caso una gamma di prodotti che si adatta alle esigenze di semplicità e di essenzialità che hanno molti risparmiatori italiani. Oggi noi ne parliamo a Salva Danaio in occasione della pubblicazione della guida Il risparmio postale, che viene pubblicata domani dal Sole 24 Ore, una delle guide di Plus 24, non solo libretti e buoni fruttiferi, ma anche prodotti ultra sofisticati. Il coordinatore di questa nuova iniziativa editoriale è Gianfranco Ursino, collega di Plus 24. Ben trovato, Gianfranco. Franco, ciao, tutto bene? Buongiorno, tutto bene, buongiorno a tutti. E poi naturalmente abbiamo anche un rappresentante di Poste Italiane, il dottor Maurizio Di Luzio, responsabile Wealth Management di Banco Posta. Dottor Di Luzio, buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi, a tutti. Eccoci qua. Allora, noi oggi agli ascoltatori chiediamo: vi affidate ai prodotti postali per gestire la vostra liquidità? Noi ci soffermeremo proprio su questo oggi, perché i prodotti di investimento distribuiti dalle poste sono tradizionalmente riconosciuti come molto semplici, prodotti che si possono liquidare in caso di necessità, e oggi sono intervenuti sul mercato i cosiddetti conti di deposito, che forse sono quei prodotti di investimento che rappresentano la concorrenza più immediata con i tradizionali prodotti di risparmio postale. Se la giocano un po' sui rendimenti adesso, naturalmente, però forse possiamo anche fare un tipo di paragone di questo tipo. E allora, se vi affidate ai prodotti postali per gestire anche il vostro risparmio, in base a quali criteri scegliete tra banca e posta? Raccontatecelo all'800 24 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Andate anche, se volete, su Facebook, siamo su salvadanaio-radio24. Abbiamo qualche buona notizia di borsa oggi. Più 2,33% Milano, più 2,10% per Parigi, più 1,52% per Francoforte, Londra più 1,53%, euro ai massimi da 4 mesi nei confronti del dollaro, siamo a 1,30,80 e abbiamo uno spread in discesa sui 330 punti base. Cosa succede questa mattina? Che sono arrivate buone notizie dagli Stati Uniti, dove finalmente, visto che il mercato la chiedeva da un bel po' di tempo, la Banca Centrale Americana ha lanciato questa terza fase della quantitative easing. Si tratta di una grande operazione di acquisto di obbligazioni sul mercato. In questo caso il programma di acquisto di bond riguarderà particolarmente obbligazioni sui mutui ipotecari, 40 miliardi di dollari al mese per una durata illimitata fino a quando ce ne sarà bisogno, ha detto la Fed. Tutto questo oggi stimola notevolmente anche le borse. La Fed è intervenuta perché anche l'economia americana ha bisogno di ritrovare slancio, la disoccupazione ancora piuttosto alta, una grana molto importante anche per i candidati della campagna elettorale, per cui si devono trovare tutte le iniziative possibili per rimettere in pista nell'economia. La Fed appunto ha pensato a questo. Vi dicevo appunto, le borse rispondono molto bene, vanno molto bene a Piazza Affari i titoli del settore industriale. Per una volta tanto non ne troviamo solo le banche protagoniste della seduta. I migliori titoli sono Pirelli più 4,86, Fiat Industrial più 4,82, Mediaset più 4,67, Prismian più 4,61, Mediolanum più 3,87, Buzzi Unicem più 3,65, e con rialzi di oltre 3 punti troviamo anche Autogrill, STM che sta preparando il suo piano industriale, Eni più 3,45%. Per Eni c'è per la verità anche un'altra notizia che riguarda il collocamento di una quota, la quota dell'1,7% detenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti, una quota collocata appunto sul mercato, e questa è la reazione della borsa. Il segno meno lo abbiamo su Parmalat stamattina, meno 0,6%, sull'Ottomatica meno 0,3%, di Assorin meno 0,15%. Questo è il quadro di borsa di questa mattina. Noi però abbiamo un altro argomento oggi a Salvadanaio, parliamo di un altro tipo di investimento e parliamo di quelle famiglie che scelgono il risparmio postale. Gianfranco Ursino, sono tante, secondo anche i dati che pubblichi tu in apertura nell'introduzione alla guida che esce domani con il Sole 24 Ore. Secondo gli ultimi dati di Banca d'Italia, circa il 9% delle attività finanziarie detenute dalle famiglie italiane sono proprio impiegate in risparmio postale. Tanto per renderci conto invece in termini percentuali, un po' più in termini assoluti, a quanto ammonta questa mole di risparmio di italiani che è investita nei prodotti delle poste, solo considerando i libretti e i buoni postali, oramai si viaggia nell'ordine di oltre 230 miliardi di euro. Si può identificare qual è il maggior cliente delle poste? Mi viene da pensare naturalmente ai pensionati che, riscuotendo in gran parte la pensione proprio presso gli sportelli, che sono tanti, sparsi appunto sul territorio, in automatico cercano, magari anche proprio per il profilo molto modesto che molto spesso hanno, il prodotto di risparmio più semplice che lì viene distribuito. E quello sicuramente, diciamo, è la base da cui Poste Italiane negli ultimi 10 anni è partita, no? Per cercare di sviluppare questo nuovo business. No, come dicevamo anche all'inizio, dell'attività bancaria vera e propria, perché ormai, no, anche Imposta, no, con infatti anche il nome stesso di Banco Posta, no, ormai è una vera e propria banca. E certo, negli ultimi anni comunque l'evoluzione anche dei prodotti che hanno sempre di più sviluppato gli uffici marketing delle Poste Italiane, che è proposti allo sportello, sono andati anche a cercare sempre di catturare una clientela sempre anche più esigente. Quindi oramai c'è anche l'offerta, la possibilità di fare il trading online, certo. Quindi con prodotti mutui. Con tutti, oltre ai mutui, ma dico anche, parliamo di prodotti che solo possiamo tradurli con, che sono anche di difficile traduzione, come i certificati, anche se le chiamiamo, possiamo chiamarli certificati o index link, che sono rivolti a un pubblico quindi più esigente, più evoluto, e sempre di più catturano effettivamente anche le attenzioni di questo pubblico, queste offerte delle porte. Quindi Ernesto, non solo più pensionati. Ecco. No, infatti, Ernesto mi scrive: lei in realtà non frequenta gli uffici postali, altrimenti non avrebbe fatto questa introduzione. Non so per quale motivo arrivi a questa conclusione. Ernesto, le posso assicurare che magari non ci vado per un prodotto di investimento, però frequento le poste come qualsiasi altra persona. A volte mi arrivano dei pacchi, a volte devo spedire delle raccomandate, lo faccio anch'io come ogni essere, come ogni comune mortale. Per cui Ernesto, magari così ci spieghi un po' meglio perché fa questa considerazione. Stanno già arrivando molti messaggi. Maurizio Di Luzio, responsabile wealth management di Banco Posta: io sono partita con una considerazione molto banale, appunto identificando come il vostro maggior cliente il pensionato. Poi Gianfranco Ursino naturalmente già detto che in realtà le cose negli anni sono profondamente cambiate. Per quello che riguarda la vostra identità, la fotografia che invece l'azienda scatta qual è per quello che riguarda la propria clientela? Ma sicuramente penso che questa possa essere un'occasione per confermare quello che ha detto il dottor Ursino, cioè che lo stereotipo del cliente tipo di Poste Italiane rappresentato da un allegro nonnino di 70 anni con in mano il libretto della pensione probabilmente fa parte di qualche lustro fa. Diciamo che nel 99 Poste Italiane ha subito un vero e proprio Big Bang, dapprima con la trasformazione dal Ministero delle Poste in ente pubblico economico, e successivamente proprio per rendere, come posso dire, Poste autonoma, perché fino a quel momento il Ministero delle Poste viveva soprattutto con i trasferimenti dei fondi che il Ministero faceva apposta, in quanto non riusciva con l'attività svolta a reggersi con le proprie gambe. Con la trasformazione in SPA, Poste si regge da sola con le proprie gambe, e ovviamente questo è stato possibile, in quanto credo conveniate, è difficile riuscire a, a competere sul mercato con una proposta monodirezionale. Collocare prodotti del risparmio, solo prodotti del risparmio postale è una cosa buona, ma solo prodotti del risparmio postale non ci consente di poter competere con un mercato difficile e con la concorrenza che è molto agguerrita. I prodotti di risparmio postale continuano a essere lo zoccolo duro di Poste Italiane. Vi do un dato: l'80% fatto 100, quindi quello che attualmente è raccolto da Poste Italiane, l'80% è risparmio postale. Abbiamo allargato nel tempo, come vi dicevo, per poter competere al meglio con un mercato competitivo, sicuramente l'offerta di prodotti, magari in qualche caso anche con una proposta sofisticata, in qualche circostanza, magari così rispondo al cliente che ha mandato un SMS poco fa, non andando negli uffici postali ma rimanendo seduto comodamente da casa, e quindi mi riferisco al trading online, ma le poste hanno cambiato profondamente pelle. Hanno cambiato pelle. Senta, ma sono 1999-98, tanto per citare altri dati, avevamo, se non ricordo male, 150.000 conti correnti. Oggi stiamo parlando di più di 5 milioni e 500 mila conti corretti. 5 milioni, cifre veramente importanti. Gianfranco Orsino, sì. Sui 20 miliardi di fatturato circa che fa il gruppo Poste Italiane oggi come oggi, di circa, adesso naturalmente anno per anno cambia, però viaggia su quell'ordine di grandezza dei 20 miliardi. Ad esempio, nel 2011 ben 9,5 miliardi di fatturato l'ha generato soltanto le polizze vita, senza considerare gli altri strumenti di investimento finanziari. Quindi ormai, per quanto riguarda i servizi postali, distribuzioni postali, sono veramente una minima parte. Una minima parte, diciamo che è proprio diventato ormai un soggetto finanziario a tutti gli effetti. I libretti di risparmio e i buoni fruttiferi, che sono sempre stati il cavallo di battaglia del risparmio postale, dottor Di Luzio, rimangono ancora i prodotti di investimento, proprio per la loro semplicità, più diffusi fra i vostri clienti? Nessun dubbio, stiamo parlando di cifre significative. Complessivamente lo stock al 30 giugno di quest'anno ammonta a 350 miliardi, è un bel numero, di cui 94 miliardi libretti e i restanti 210 miliardi in buoni postali fruttiferi. La proposta di questi prodotti ovviamente non è rimasta ferma nelle tipologie più o meno arcaiche che potevano aver caratterizzato l'offerta del risparmio postale di qualche decennio fa. Ovviamente Poste, insieme all'emittente Cassa Depositi e Prestiti, ha innovato la gamba, ha caratterizzato in particolare il libretto anche di interventi promozionali che ci hanno consentito, lo che vi chiamavate voi all'inizio, di poter competere su un mercato molto competitivo anche con i conti di deposito. Tra l'altro, al tema dei libretti di risparmio è dedicato il primo capitolo del libro della guida di Plus 24, che appunto esce domani. Il titolo del capitolo è Il revival dei libretti. Adesso cercheremo di capire perché. Una piccola pillola che ci spiega che cosa sono questi strumenti di investimento. Se le poste e gli istituti di credito hanno un gran bisogno della liquidità presente nelle tasche della clientela retail, alla stragrande maggioranza di risparmiatori avversi al rischio non dispiace affidargliela, come dimostrano il successo dei conti deposito e il revival dei libretti di risparmio postale. Questi ultimi rappresentano ancora uno degli strumenti preferiti dagli italiani per mettere al sicuro i risparmi e al tempo stesso ottenere un tasso di interesse che, con le ultime iniziative promozionali, risulta essere molto competitivo rispetto a quelli offerti dai buoni fruttiferi postali, dai bot e anche dalle offerte più aggressive, provenienti dal canale bancario attraverso i conti deposito vincolati. Lo dimostrano anche i numeri. Nel primo semestre del 2012 la raccolta netta dei libretti di risparmio è stata positiva e pari a 1 miliardo 392 milioni di euro, invertendo la performance negativa registrata nel primo semestre 2011, quando la raccolta era pari a 3 miliardi 330 milioni di euro. 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori se vogliono farci delle domande sul funzionamento dei libretti di risparmio dei buoni fruttiferi, i prodotti di investimento più largamente diffusi da Poste Italiane. Raccontateci anche se siete scontenti di quello che vi riconoscono o se non capite qualcosa e magari il direttore di banca presso il quale, appunto, il direttore dell'ufficio postale presso il quale appunto avete acquistato questo prodotto di investimento magari non vi ha spiegato bene, voi non siete contenti e soddisfatti, quindi raccontateci anche quello che non va e noi lo commenteremo con i nostri ospiti di questa mattina. Tra l'altro, dottor Di Luzio, una delle novità più importanti che sono intervenute di recente sul tema dei libretti di risparmio riguardava la differenziazione fra libretti al portatore e quelli nominativi, perché per quello che riguarda quelli al portatore bisogna stare attenti alla soglia, no, e alla giacenza che c'è su, perché altrimenti vanno chiusi o comunque vanno ridimensionati nell'importo per le normative antiriciclaggio, se non mi ricordo male. Nessun dubbio, diciamo che nella grande famiglia dei libretti il libretto al portatore è una delle quattro tipologie che riguardano la nostra offerta. Ovviamente ci siamo adeguati alle prescrizioni normative in materia che prevedono che su questi libretti non ci possono essere somme superiori ai 1.000 euro, abbiamo comunicato in maniera specifica alla nostra clientela di provvedere, nel caso in cui ci fossero sopravvenienze superiori, a reintegrare l'importo nei limiti di legge. Adesso diciamo che il fenomeno quantitativo dei libretti al portatore si è sufficientemente ridimensionato, sono circa 600.000 comunque i libretti al portatore che ancora fanno parte del ventaglio dei prodotti dei libretti di risparmio postale. La famiglia dei libretti di risparmio comunque è caratterizzata da un numero altrettanto gigantesco, stiamo parlando di ben 28 milioni e mezzo di libretti in circolazione. Diciamo che potrei sbilanciarmi a dire che una famiglia su due ha un libretto di risparmio, anche perché ancora molti nonni li regalano ai propri nipoti, quindi diciamo è la cosa più immediata. Nasce un bambino in una casa, tu Gianfranco sei esperto di nascite di bambini, come dire, arriva un po' di denaro come primo regalo anche per questi bebè, e la cosa più immediata, la prima cosa che si fa magari è proprio quella di aprire un libretto di risparmio. Poi magari in un momento successivo si pensa come gestire diversamente questo denaro, però, come dire, io ho questa immagine. Proprio a tal riguardo nel libro dedico proprio un capitolo ad hoc proprio per analizzare proprio nel dettaglio l'offerta per i minori, no? Quindi c'è proprio il titolo riservato ai minori, che Poste Italiane, diciamo, sia con i buoni postali che con i libretti fa delle offerte ad hoc. Io c'è poi tutta quella fase di io nasco, io cresco, per quanto riguarda i libretti, che naturalmente possono essere considerati dei veri e propri salvadanai che danno qualche rendimento in più ai bambini e quindi anche fungono un po' da stimolo naturalmente ai nonni, agli zii e tutto quanto a versare con più facilità queste somme per i nipoti, sapendo che sono dedicate ai nipoti, perché in quel caso naturalmente i genitori se ne devono dimenticare che esiste questo piccolo salvadanaio appunto per i propri bambini. Faccio anche dei ragionamenti tra i libretti e i buoni postali dedicati ai minori, quale convenienza c'è e che utilizzo bisogna farne. Racconti molto velocemente, perché poi devo andare già alla prima pausa, che tipo di remunerazione riconoscono i libretti di risparmio, quindi andiamo proprio all'ABC del funzionamento di questo prodotto di risparmio. Ecco, nell'ultimo anno c'è stato proprio una, e poi ce lo confermerà il dottor Di Luzio, un vero stravolgimento secondo me nell'offerta dei prodotti di libretti di risparmio, ma anche dei buoni postali da parte di Poste Italiane, che ha cercato sempre di più di andare quindi a fare concorrenza ai libretti di deposito, ai conti di deposito. Quindi cosa è successo? C'è stato bene o male un ritorno alla semplicità, no? Mentre prima c'erano anche dei buoni molto più anche complessi, tipo i BPF Premia o quelli indicizzati all'andamento delle borse, vi dicendo, hanno capito forse alle borse che in questo contesto di mercato un prodotto più semplice e più competitivo nei confronti di, perché la gente vuole la tranquillità e la semplicità. Quindi cosa è successo? Che sia sui libretti che sui buoni hanno fatto delle offerte ad hoc. Sui libretti, mentre fino agli anni scorsi già riconoscevano qualche cosa in più alla liquidità aggiuntiva che un cliente portava, e quindi ti davano il cosiddetto rendimento oro rispetto al rendimento giallo, dall'inizio del 2012, sul finire del 2011 anzi, hanno riconosciuto il rendimento cosiddetto oro, che oggi vale 1,6% a tutti quelli che, quindi il libretto oggi base mi ha 1,6% lordo. A questo 1,6% lordo in più, per tutta la liquidità aggiuntiva, diciamo, che il cliente porta in posta sul libretto, gli viene conosciuto un altro 1,6%. Quindi almeno almeno si va a coprire un po' l'inflazione. E quindi siamo arrivati a un 3-2% lordo, sì, che è oggi è 3-2, siamo lì, proprio esatto. Siamo lì. Se in poi più, si vuole proteggere il proprio risparmio dell'inflazione, ci sono dei prodotti di investimento ad hoc. Proprio. E allora abbiamo scatenato moltissimi ascoltatori, questa mattina parliamo del risparmio postale, lanciando la guida che esce domani con Plus 24, il risparmio postale, non solo libretti e buoni fruttiferi, ma anche prodotti ultra sofisticati. Noi per la verità ci soffermiamo stamattina proprio su quelli più semplici, quelli maggiormente distribuiti fra la platea dei risparmiatori delle famiglie italiane, quindi libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali. Per adesso abbiamo analizzato solamente i libretti di risparmio, abbiamo prima di fare la prima pausa cercato di tracciare un quadro su quelli che sono i rendimenti appunto riconosciuti dalle ultime dagli ultimi appunto libretti messi in circolazione. Chiaramente anche lì ci spiegava Gianfranco Ursino, si viaggia un po' sulla scia dell'andamento di mercato e a seconda del momento in cui lo si sottoscrive e a seconda del momento in cui lo si alimenta si può ottenere una remunerazione piuttosto che un'altra, magari ovviamente ottenuta in precedenza. 800240024 è il numero verde per le vostre domande. Oltre a Gianfranco Ursino che ha curato la guida che esce domani con Plus 24, con noi stamattina anche Maurizio Di Luzio, responsabile Wealth Management di BancoPosta. C'è una domanda di Carla da Venezia che ci dà l'opportunità di rafforzare il tema che stavamo affrontando proprio fino a poco fa, il rendimento dei libretti postali. Carla, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio intanto perché in parte avete già risposto ai miei quesiti, nel senso che adesso so quanto io percepirò su questi due libretti nominativi di risparmio che ho su due libretti postali. Un'altra domanda che faccio io è questa: io ho capito da quanto mi è stato detto alla Posta che le Poste italiane hanno due canali per queste per la raccolta di denaro, vero? E quello, cioè un fondo depositi, mi pare che sarebbe direttamente, dipenderebbe o sarebbe garantito dallo Stato direttamente e coprirebbe libretti e anche buoni fruttiferi postali, un banco posta che non so invece che collocazione abbia. Per esempio loro mi hanno offerto mesi fa di sottoscrivere un certificato di deposito con denaro fresco, però non con quello che c'era sui libretti. E io ho chiesto questo: io non faccio certificati di deposito presso altre banche o istituti, dico perché io non mi fido delle banche, cioè purtroppo il momento è spinoso. Dico, ma sia i soldi che io metto sul libretto, sia quelli che posso investire bloccandoli per un anno in certificati di deposito, sono sono assicurati da chi? Garanti, dallo Stato, come per esempio per il conto corrente €100.000 solo? Sì, il fondo interbancario eccetera, quindi lei vuole capire se per l'amministrazione postale valgono un po' le stesse regole. Carla, grazie mille, andiamo al dottor Maurizio Di Luzio che tanto sarà consapevole del fatto che la domanda più ricorrente di tutti negli ultimi anni è stata: se la mia banca fallisce, chi mi risarcisce, chi mi dà il denaro che gli avevo prestato? C'è il fondo interbancario di tutela dei depositi che ci garantisce la restituzione di €100.000 del nostro denaro. Chiaramente non tutti hanno ammontari superiori, anzi ne abbiamo molti di meno, però in ogni caso c'è questo limite garantito dal fondo interbancario. Come funziona invece per le Poste, come funziona per un libretto postale o nel caso in cui Carla decida, anche se non vuole farlo, di sottoscrivere un certificato di deposito? Lì abbiamo, come dire, una situazione separata, visto che si tratta di uno strumento di investimento vero e proprio, non di una liquidità depositata appunto presso uno sportello? Ma desidero subito tranquillizzare la cliente Carla sulla circostanza che tutti i prodotti di risparmio postale godono di una garanzia esplicita dello Stato italiano, quindi sia libretti che buoni, senza limiti. Quindi a differenza di quello che citavate poco fa, dove il fondo interbancario garantisce nei limiti di €100.000, se non ricordo male, sì. Se un cliente avesse la fortuna di poter sottoscrivere un buono, facciamo finta, per €150.000, la garanzia ovviamente va oltre e va al limite dei €150.000 o quant'altro avesse sottoscritto il cliente. Per quanto riguarda invece i prodotti diversi dal risparmio postale, ecco, desidero precisare che possiamo indicare che c'è una garanzia implicita dello Stato italiano. Ricordo che Poste Italiane è partecipata al 100% dal MEF e che i correntisti... È il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Esatto, così. E che i correntisti del conto Banco Posta che versano somme, qualunque esse siano, a fronte degli importi che vengono versati dalla clientela di Poste sul proprio conto corrente, Poste Italiane acquista titoli di Stato. Quindi indirettamente quelle somme sono garantite comunque da uno strumento emesso dallo Stato italiano. Allora, volevo sapere se abbiamo tranquillizzato anche o dato comunque le risposte che cercava Michele da Roma, che credo avesse appunto delle domande di questo tipo, no? Le garanzie offerte sul conto di risparmio. Michele? Sì, eccomi. Sì, sì, esattamente, era la stessa domanda. Poste non è nel circuito bancario ABI, peraltro anomalia tutta italiana, e quindi volevo capire quali erano le garanzie che offriva, diciamo, a fronte del risparmio, della raccolta risparmio. Ha sentito la risposta precedente? Dobbiamo ribadirla? No. Siamo a posto così. Allora, Michele, grazie molte. Andiamo a Lino dalla provincia di Milano, invece, che si fa un'altra domanda, che è quella relativa alla tassazione sui prodotti postali. Lino, buongiorno. Buongiorno, dottoressa, grazie. Senta, io ho seguito anche altre trasmissioni fatte da lei su... in merito ai risparmi, no? Sì. E mi sembra che non si è trattato a fondo l'argomento dell'imposta fissa, che danneggerà moltissimo e azzererà i risparmi. Mi riferisco all'imposta fissa di 34,20 euro. Mm-hmm. Io non credo che le poste potranno sottrarsi a questa... Dall'applicazione. Allora, Lino... Allora, mi permetta, aspetti un attimo solo, dottoressa. A me risulta che tantissime persone hanno risparmi risibili anche su Kebanga e su Inch Direct e credo anche presso le poste, per cui il reddito che percepiranno dalle piccole somme depositate risulterà inferiore all'imposizione, all'imposta fissa di 34,20 euro. Ma ci rendiamo conto di che balordaggine è questa? Guardi Lino, si è perso qualche trasmissione, perché per la verità adesso da un po' che non la facciamo, ma con Gianfranco Ursino, che questo è un tema che è il suo cavallo di battaglia, lo volevo dire io esattamente, abbiamo fatto più volte questi ragionamenti proprio anche relativamente al fatto che la microimposta di Bolo, chiamiamola così, per la verità vanifica il rendimento che possono ottenere coloro che hanno un piccolo risparmio. Di lasciare il tetto minimo di questa tassa, no, che incide per il 2012 per lo 0,1%, sì, no, sulle somme investite, e qui facciamo riferimento più che altro ai prodotti finanziari, non ai conto correnti o ai libretti di risparmio, che invece sono tassati in maniera con una aliquota sempre di 34,2 euro, cioè è un valore fisso di 34,2 euro per anno in maniera fissa, e anche se sui libretti di risparmio c'è il discorso dei 5.000 euro che invece bisogna tenere come soglia di investimento oltre la quale si applica questa tassazione, perché se tu hai un libretto di risparmio anche presso le poste, visto che qui stiamo parlando delle poste ma non solo, se la soglia è se tu hai investito come giacenza media durante l'anno una somma inferiore a 5.000 euro non viene applicata l'imposta di bollo, come anche sui buoni fruttiferi postali. Però ritornando al tema che sollevava l'ascoltatore, effettivamente quella soglia minima che per capitali che ne so che uno ha investito anche di 10.000 euro non va a incidere per lo 0,1 proporzionalmente come abbiamo detto incide per le somme più importanti, ma incide per lo 0,3 in quel caso, 0,34,2 diciamo per la precisione. Mm-hmm. Quindi cosa si poteva fare? Si poteva fare di eliminare questa soglia minima per rendere uno da una parte effettivamente l'imposta equa e proporzionale, no? Per tutti quanti poteva essere detto si applica lo 0,1 anche per chi investe 1.000 euro, 5.000 euro, perché ci sono, no, chi ha tanto certo, questa possibilità che ha pochissimo investito in queste cifre. Dall'altra parte si semplificava la vita anche agli intermediari. Gli intermediari oggi come oggi, visto che devono fare queste sommatorie, no, per vedere se il cliente mi supera queste soglie massime e queste soglie minime, a sto punto devono mettere in piedi tutto un meccanismo di unire i vari prodotti finanziari che il cliente ha sottoscritto, e questo le poste lo sanno benissimo, visto che ormai offrono di tutto, per poter applicare l'imposta giusta. Ora, tornando un attimo sempre alla tassazione, tornando al nostro tema dei libretti e dei buoni fruttiferi postali, quindi riepilogando sui libretti abbiamo una tassazione del 34,2 euro fissi l'anno se il libretto supera come giacenza media i 5.000 euro. Sui buoni invece viene applicata l'aliquota proporzionale progressiva dello 0,1% del 2012, che dal 2013 in poi diventerà lo 0,15%. Soltanto che c'è, come dicevamo prima, questa soglia minima di 34,2 euro che comunque tu paghi, anche se quello 0,1% che dicevamo sui 10.000 euro mi portava a pagare 10 euro, però in realtà tu, lo Stato dice no, minimo mi paghi 34,2 euro. Volevo sentire il dottor Di Luzio se avete proprio riscontrato ai vostri sportelli molte perplessità per la nuova formulazione appunto della tassazione sui prodotti di investimento, che chiaramente non avete introdotto voi, ma chiaramente l'avrete dovuta anche spiegare alla notevole clientela appunto che avete. Dottor Di Luzio, allora ritorniamo a lei. La nuova tassazione sui prodotti di risparmio appunto introdotta dalle normative recenti ha scompaginato un po' le convinzioni di molti risparmiatori, appunto anche perché è stata piuttosto complessa nella sua introduzione. Che domande vi fanno i vostri sportelli? Beh, diciamo che l'impatto non è stato positivo, non fosse per altro che il risparmio postale per la prima volta nella storia è stato interessato dall'applicazione dell'imposta di bollo. Sia i libretti che i buoni non erano interessati dalle precedenti manovre in questo senso. Volevo ricordare che poi, questo inciso, che sono tassati i buoni solo quelli dematerializzati, perché quelli cartacei emessi prima del 2009 il Ministero ha precisato che rimangono esenti da tasse. Sì, faccio una precisazione, ancora non sono state emanate le circolari interpretative dei decreti di attuazione, quindi abbiamo delle assunzioni ma non abbiamo ancora delle certezze, e questo ci lascia un po' preoccupati, perché proprio perché la materia sul risparmio postale è nuova in assoluto, finché non escono queste circolari non possiamo essere precisi alla lettera sulla modalità di applicazione di questa imposta. Comunque, quanto diceva il dottor Lussino, in linea di massima dovrebbe essere, e quello che espresso e descritto dai decreti di attuazione dovrebbe essere anche confermato dalle circolari di attuazione. Ecco, tornando sul risparmio postale, soprattutto considerando che il risparmio postale è una forma di investimento anche e soprattutto per le piccole tasche, non ci dimentichiamo che buoni vengono acquistati anche per tagli di 50 euro, evidentemente l'imposta non proporzionale, come evidenziava il dottor Ursino, ma che evidentemente interviene con un minimo di 34,20 euro, crea dei problemi di proporzionalità. Mi permetto di dire che almeno nel 2012 c'è anche un cap sull'imposta massima corrispondibile da un cliente, quindi di fatto c'è una distorsione in basso, ma c'è anche una distorsione in alto, perché i grandi patrimoni evidentemente godranno del limite massimo di 1.200 euro. Infatti su quelli non incide nemmeno lo 0,1%, forse se si sono fatti un problema di gettito da parte dello Stato per le casse dello Stato, quello di mantenere quindi quella imposta fissa di 34,2, forse poteva essere coperto questo mancato gettito eliminando anche il cap massimo, apriamo non ci sarà dal 2013, una parentesi un po' complicata. Sì. Al momento ci limitiamo appunto a commentare quello che abbiamo, poi tutto. Sì. In questo contesto comunque generalizzato negativo, posso quantomeno precisare che almeno il risparmio postale ha una piccola isola felice, non forse peraltro stante il target della nostra clientela e stante anche la funzione valoriale del risparmio postale. Ci tengo a precisare che i soldi raccolti da Poste con il risparmio postale vengono utilizzati da Cassa Depositi e Prestiti sostanzialmente per la crescita del paese. La funzione valoriale è data proprio dalla circostanza che Cassa finanzia gli enti pubblici territoriali che magari costruiscono scuole, costruiscono asili nido, ospedali, cose di questo genere. Dottor Di Luzio, ritorniamo alle domande degli ascoltatori, poi su questi temi un po' come dire di scenario, un po' più generali, magari ci ritorneremo in un'altra circostanza e forse in altre trasmissioni. Perché le Poste non accettano le carte di credito, chiedono molti ascoltatori? Le accettiamo. No, allora non capisco l'ascoltatore. Cioè, voi per qualunque tipo di pagamento, se io vengo a voler pagare una bolletta o per esempio a fare il pagamento delle spese di condominio, per esempio, le posso fare con la carta di credito? A parte che assolutamente per il... sì. Allora non capisco l'ascoltatore che cosa gli sia successo. Andiamo a sentire altri ascoltatori. Enzo da Pescara, molto critico per il comparto postale. Perché, Enzo? Sì, salve. Intanto, Deborah, tanti complimenti perché Salvadanaio è davvero un'ottima trasmissione. Grazie. Parto subito che non è vero assolutamente che le poste accettano le carte di credito. Anch'io giorni fa sono andato a pagare un bollettino, ma loro non hanno la struttura fisica per accettarle. Allora, vediamo poi se dipende impegni. Magari da singoli sportelli un po' più sì. Che ancora devono rinnovarsi. Probabilmente sì. Allora, io ho una riflessione molto negativa. Purtroppo devo dire che a mio parere lo sviluppo degli uffici postali sono il riflesso di un'Italia che non cresce, di un'Italia obsoleta degli anni 60-70 e che non riesce ad evolversi verso strumenti finanziari più economici, più evoluti, più redditivi. Ho avuto un conto corrente per 3 mesi, l'ho chiuso immediatamente, costoso, burocratico. Ho aperto un conto corrente con IE, in Gidaret ed è tutto un altro mondo. La banca fa la banca e le poste dovrebbero fare le poste, invece non fanno né poste né banche, purtroppo, secondo me. Della struttura arcaica in cui si trovano gli uffici postali. Mi dice perché ha chiuso il conto in 3 mesi, Enzo, o quali sono stati i problemi che ha riscontrato, così capiamo meglio. Allora, le poste non hanno una struttura per ospitare nemmeno i clienti in totale sicurezza, non hanno tornelli, sono porte aperte, sembra un ufficio di collocamento degli anni 60. Stare dentro un ufficio postale è un rischio. Allora, Enzo, no, io prendo atto, ovviamente, poi succede. Secondo lei, allora, per provocare lei e poi andare a provocare anche Poste Italiane, secondo lei, allora, che cosa dobbiamo attribuire questo grande successo di distribuzione dei prodotti di investimento delle poste presso le famiglie italiane? Non sono mica tutti quanti presi con la pistola alle tempie? No, però è il fatto che purtroppo internet ce l'hanno in pochi, che ci sono tanti pensionati, la comodità di averlo vicino casa, e non voglio dimenticare, non voglio anche ricordare che prendono 1,30 euro per il pagamento di un bollettino. 1,30 euro vuol dire un mezzo chilo di pane oggi. È abbastanza vergognoso, questo è un atteggiamento monopolistico che purtroppo sanno solo loro. Io credo che 50 centesimi per pagare un bollettino in 5 minuti sia già ben pagato. Io credo. Enzo, penso che abbiamo preso un bel po' di spunti dalla sua telefonata. Oltretutto abbiamo 2 minuti prima della chiusura. Dottor Di Luzio, da dove vuole cominciare? Allora, qua mancano i tornelli negli sportelli di Pescara. Cominciamo intanto a rafforzare le misure di sicurezza nel presidio, appunto, abruzzese. Detto questo, questa storia della carta di credito va approfondita, credo. Certo, la approfondiamo insieme. Benissimo, quindi andiamo un po' ad esplorare le motivazioni per cui, per la verità, in certi sportelli non è consentito l'utilizzo. Se mi consentiva, volevo rispondere certo. Per quanto riguarda l'appunto che ha fatto il cliente, l'ex cliente, che spero ritorni a essere nostro cliente, sulla circostanza che forse Poste dovrebbe ritornare a fare le poste nel senso più antico del termine. In realtà Poste Italiane non ha fatto altro che fare poi tutto quello che hanno fatto le poste dei paesi più sviluppati. Io ricordo che nel 1999, per imparare a fare la banca, noi siamo andati a trovare i nostri amici francesi di La Poste. Oggi posso dire che dopo 10 anni abbiamo ricevuto noi dai colleghi francesi la visita, perché hanno avuto modo di apprezzare in poco tempo come fossimo cresciuti nella proposizione di servizi finanziari. Ricordo anche Deutsche Post, ricordo anche le poste olandesi. Recentemente abbiamo concluso degli accordi con le poste russe, con le poste egiziane, dove Poste Italiane vende il proprio know-how in termini di proposizione non solo di servizi postali ma anche di servizi finanziari. Noi siamo orgogliosi ovviamente della crescita che abbiamo avuto. Certo, dobbiamo ancora crescere, fare di più, migliorare il nostro servizio per garantire la capillarità in 14.000 uffici postali, con degli uffici che sono uffici che magari abbiamo da qualche decina d'anni, non sempre si può disporre di una saletta consulenza. Molti uffici piccoli non hanno la ricettività che giustamente diceva il cliente. Tuttavia quello che conta è assicurare il servizio, ovviamente stiamo anche lavorando per poter creare maggiori spazi. Nel libro volevo un attimo interromperlo, 30 secondi vi devo dare perché stiamo chiudendo, sì, perché anche Gianfranco Ursino non riesce a pagare con la carta di credito al suo ufficio postale. Ah, sì, è vero questo, però dicevo, quello su cui ho fatto un po' è sul lato della consulenza le mie critiche principali, nel senso una consulenza finanziaria che sempre più deve spingersi, come sottolineo nel libro, a dare dei consigli. Per esempio sulla tassazione ci sono i modi per evitare di pagare 34,2 euro annui, per evitando per esempio, che ne so, per chi investe piccole somme a 20.000 euro per esempio, può benissimo spezzettarle, se ha la possibilità, in quattro buoni sotto i 5.000 euro diversamente intestati, uno intestato a mia moglie e mio figlio, dicendo, ci sono, non voglio entrare nell'illusione, benissimo, però ci sono, però meccanismi, ho capito che ti piace andare a fare il consulente alle poste, soprattutto di andare a chiamare il cliente casa per dirgli di riportare un buono sottoscritto qualche mese fa che non è più. Ci ritorniamo su questi temi. Grazie Gianfranco, grazie a Maurizio Di Luzio. Devo andare assolutamente a concludere.